Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Svegliarsi la mattina con la voglia di parlare solo con te. Come vi siete svegliati questa mattina? Avete dormito? Avete dormito bene? Buongiorno, eccomi qua, sono le 12.08, non potevo mancare. Eccomi, sono Nicoletta, la vostra salutare ossessione quotidiana. Siamo insieme anche il sabato, saremo insieme anche domani, domenica e per tutta la prossima settimana. Potete raggiungermi all'800 24 00 24 oppure scrivermi un WhatsApp al 349 238 6666. Come sempre mi faccio un po' i fatti vostri, che sono anche un po' i fatti miei. Volevo chiedervi di parlare con me oggi di sonno e sapere anche se vi siete regalati qualche ora di sonno in più oppure la sveglia è suonata come al solito, perché non basta dormire, lo sappiamo, bisogna anche dormire bene, svegliarsi freschi e riposati. Magari oggi è successo proprio così, raccontatemelo, ma soprattutto raccontatelo al nostro esperto in linea con noi, il dottor Lino Nobili, responsabile di Centro di Medicina del Sonno all'ospedale Niguarda di Milano. Buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Si è svegliato riposato? Ha dormito un po' di più? Ma ho dormito come al solito, ecco. Mio figlio va a scuola anche al sabato mattina. Quindi, chissà quanti altri nostri amici all'ascolto vorrebbero dormire, ma con i figli che al sabato vanno a scuola, il sabato diventa un giorno normale. Dottor Nobili, abbiamo parlato tante volte di sonno, lo sappiamo che è essenziale alla vita, condiziona il nostro benessere psicofisico, centinaia e centinaia di studi lo dimostrano, una mole di dati che possiamo sintetizzare con una frase di Schopenhauer che ho trovato e che mi piace molto. Il sonno è per l'uomo ciò che la carica è per l'orologio. Concorda? Concordo, assolutamente. Il sonno è ormai un dato di fatto, è un qualche cosa di fondamentale per la nostra mente, nel senso che interviene in tutti i nostri meccanismi di organizzazione, delle sinapsi cerebrali, quindi fondamentale per gli aspetti cognitivi e per il nostro corpo, perché interviene nella regolazione di ormoni, di valori pressori, quindi ha un impatto notevole su tutta la salute. Dottor Nobili, ho deciso di parlare di sonno proprio nel weekend, perché il weekend è una splendida occasione per chi non deve lavorare oppure per chi non deve accompagnare i figli a scuola per regalarsi un bel sonno ristoratore, per recuperare anche un po' quel debito di sonno che ciascuno di noi alimenta ogni giorno. Funziona, dottor Nobili? Di riuscire a recuperare? Sì, possiamo recuperare, perché ci svegliamo magari presto per andare al lavoro durante la settimana, dormiamo non quanto vorremmo e non abbiamo il sonno, la qualità del sonno che desidereremmo, allora si arriva al weekend e si dice mi faccio una bella dormita. Sì, a un certo punto il sonno può recuperare la capacità di concentrare in una stessa unità di tempo, quando siamo un po' deprivati, una maggior quantità di sonno profondo, ma questo lo può fare fino a certo limite. Alla fine noi sappiamo che se esageriamo nel ridurre la quantità di tempo totale di sonno è impossibile recuperare, ne paghiamo le conseguenze a livello generale. Inoltre cercare di recuperare troppo nel weekend rischia poi di farci iniziare male la settimana con la notte della domenica sera. Quindi dobbiamo un pochino trovare il passo giusto, ma soprattutto dobbiamo, dottor Nobili, venire a capo delle ragioni, delle cause che non ci garantiscono una buona qualità del sonno, perché siamo un popolo di insonni, dottor Nobili. Ci sono tante persone che non riescono a dormire bene, ci sono tanti tipi di insonnia, c'è chi fa fatica a addormentarsi, chi si sveglia nel cuore della notte e non si addormenta più, chi si fa dei continui risvegli, chi vorrebbe dormire ma ha un risveglio anticipato. Voi siete riusciti a capire quali sono le cause che determinano questi diversi tipi di insonnia? Ma diciamo che abbiamo una capacità ormai capito che ci sono almeno dei pattern che in qualche modo si riconducono a certi tipi di disturbi invece che altri. Un'insonnia con difficoltà di addormentamento, ma poi dopo, una volta iniziato il sonno è continuo, è tipico di chi ormai ha creato un'ansia dell'addormentarsi, è entrato in qualche circolo vizioso e quindi richiede un certo approccio. Chi ha un sonno invece frammentato con continui risvegli potrebbe avere un disturbo intrinseco del sonno e va studiato in un certo modo. Chi ha un risveglio precoce potrebbe avere alla base anche un disturbo dell'umore. Quindi insomma abbiamo dei certi fenotipi, noi li chiamiamo così, cioè come si presenta il disturbo, che ci possono far capire che cosa c'è alla base. Quando non dormiamo bene la paghiamo in termini proprio anche di qualità di vita, ce ne accorgiamo, siamo più stanchi, più irritabili. Dottor Nobili, ma ci sono sicuramente, il sonno è salute, ma ci sono dei tipi di insonnia che voi avete individuato come più pericolosi per la nostra salute, quelli che possono avere un impatto più forte? Ma l'impatto più forte si ha quando si ha una riduzione proprio delle quantità di ore, quando si arriva vicino sotto le 6 ore, si arriva alle 5-6 ore. Questa è la forma di insonnia che più si associa ai vari rischi, che non sono solo quelli cognitivi ma anche quelli cardiovascolari. Quindi una riduzione del tempo totale di sonno al di sotto delle 6 ore aumenta il rischio, mentre l'alterata qualità del sonno ma con un tempo di sonno in qualche modo mantenuto ha un impatto negativo sulla qualità, gli aspetti cognitivi, va a meno rischi dal punto di vista cardiovascolare. Questo è quello che sembra. 349-238-6666, stanno arrivando anche messaggi via WhatsApp e Sergio ci scrive: durante il sonno il mio problema spesso è non riuscire a tenere ferme le gambe, perché succede proprio così, a volte il sonno che si frammenta, scappa via, si interrompe, a volte avremmo piacere, voglia di dormire, ma c'è qualche cosa che disturba il nostro sonno, ad esempio questa frenesia alle gambe. Dottor Nobili. Più volte è una particolare forma di insonnia legata a un disturbo e che va trattato assolutamente come tale, non preso come un'insonnia tra virgolette classica, si chiama la cosiddetta sindrome delle gambe senza riposo. Alcuni soggetti quando vanno a rilassarsi nelle ore serali, proprio perché questo disturbo ha un andamento, come noi diciamo, circadiano, cioè aumenta nelle ore serali, si riduce poi nel corso della notte, fa sì che si instauri una sensazione di fastidio, di smania. Ogni paziente la racconta in maniera diversa, che costringe a muovere le gambe, a stirarle e impedisce l'addormentamento. Alcuni di questi pazienti hanno poi delle piccole scossette in sonno che determinano anche dei risvegli infrasonno, quindi non solo difficoltà addormentamento ma sonno frammentato. Si può però fare qualcosa, dottor Nobili? Certo, intanto parlarne con il proprio medico di famiglia? Questo assolutamente, ecco. E anche i medici di famiglia appunto ormai sono abbastanza informati, quindi se riusciamo a spiegargli questi sintomi sanno perlomeno fin quanto possono gestirle quando devono mandare a un centro specializzato. Ormai la sindrome delle gambe senza riposo è ben riconosciuta non solo dagli specialisti ma anche dai medici di base. Allora adesso noi ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi ci occupiamo di chi si è svegliato da poco, ha dormito qualche ora in più e sta facendo i conti con un forte mal di testa. Arriviamo noi, state fermi. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Obiettivo Salute Weekend. Al settembre partivo e mentre il giorno sparisce, primavera verrà, sarà dolce e nervosa. Ma non mi scapperà. È vero, si dice aprile dolce dormire, ma noi siamo solo a settembre. Dobbiamo far passare tutto questo tempo per riconciliarci con Morfeo. Direi di portarci avanti. Lo facciamo oggi con il dottor Lino Nobili, a cui chiediamo di darci qualche indicazione per assicurarci un sonno di qualità, un sonno ristoratore che faccia bene anche alla nostra salute. Dottor Nobili. Ma guardi, la prima cosa è molto banale, è quella di cercare di rispettare i ritmi del ciclo luce-buio è fondamentalmente cercare di capire quali sono i propri ritmi, cioè non rifiutarsi di andare a dormire se si assonna la sera perché bisogna terminare di fare un lavoro, cercare quindi di, purtroppo qualche volta, di fare quelle cose che riteniamo impossibili, però questa è la prima cosa, rispondere a ciò che la natura ci ha dato per regolamentare il nostro sonno, evitare le sostanze stimolanti alla sera, insomma lasciarsi portare dai nostri ritmi interni. Se i nostri ritmi interni poi non ci consentono un buon sonno, vuol dire che c'è qualcos'altro, allora a quel punto può essere necessario parlare col medico o allo specialista, ma prima di tutto bisogna guardarsi tra virgolette dentro e dire: sto facendo veramente il massimo per essere in sincronia con il ritmo luce-buio, con ciò che la natura mi dice, specialmente la mia natura, perché è assolutamente individuale, no? Abbiamo parlato di gufi, allodole, ognuno ha la propria natura del sonno che deve imparare a conoscere. E soprattutto, dottor Nobili, deve anche imparare a chiedere aiuto quando è necessario, cioè non rassegniamoci, anche perché questo può costarci anche caro, dottor Nobili. Ma sa che questo è proprio un punto cruciale, mentre per qualsiasi altro disturbo generalmente si va dal medico, i pazienti che soffrono disturbi del sonno, specialmente di insonnia, hanno molta difficoltà ad andare dal medico e anche quando ci vanno non raccontano del disturbo del sonno, sono dati che derivano da vari studi epidemiologici in Italia e anche all'estero, viene spesso trascurato, si ha un po' quasi paura, vergogna di raccontare che si soffre di insonnia, molto spesso, e questo quindi porta poi alla trascuratezza del disturbo, alla cronicizzazione, al fai da te, e dopo diventa più difficile, mentre agli inizi, quando il sonno si presenta, l'intervento del medico può essere molto più efficace. Allora, dottor Nobili, l'abbiamo anticipato prima delle informazioni sul traffico, oggi vogliamo parlare anche di chi dorme qualche ora in più ma poi la paga, perché si sveglia e ha un cerchio alla testa, un mal di testa che in qualche modo lo fa pentire di non aver messo la sveglia. Di mal di testa, detto anche da weekend, parliamo con un grande esperto. Ci ha raggiunto il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, ben trovata. Bentornato, sono contenta anche, ecco, e saranno contente le persone che in questo momento hanno il famoso mal di testa da weekend e troveranno con i suoi consigli magari un po' di sollievo. Professore. Sì, beh, innanzitutto perché c'è questa correlazione così stretta tra sonno e emicrania? Beh, ci si è accorti che uno dei centri fondamentali per il sonno, che è l'ipotalamo, è un centro fondamentale, se non il fondamentale, uno dei più importanti dell'attacco emicranico. E questo succede perché l'attacco si scatena la mattina, perché tipicamente l'emicranico patisce il distacco della tensione nervosa. Quindi il problema non è tanto il fatto che lui quella notte abbia dormito e dormito bene, ma il fatto che sia sceso da un gradino molto alto di tensione, da quella condizione di iperveglia in cui spesso il cefalalgico, uomo o donna iperefficienti, si trovano. Bene, ruzzola da quel gradino più che scendere ed ecco che la mattina si sveglia con un attacco di mal di testa, spesso severo. Sono le 12:21, ho mal di testa, ho dormito un po' di più e che cosa faccio, professor Barbanti? Beh, come aspetto prima che cosa mi passi, mi rassegno, no, prendo una pastiglietta? Distinguiamo subito due tipologie di persone. Quelle che hanno mal di testa poche volte, beh, loro non perdano tempo. Consiglio sempre una dose di caffè doppio, se non hanno controindicazione a prenderlo, perché la caffeina non è solo un vasocostrittore, ma sconvolge le vie empie dell'attacco emicranico. Se questo non funziona, l'analgesico. E viceversa, se uno non può prendere il caffè, prende immediatamente l'analgesico subito, perché altrimenti il cervello entra in una condizione, diciamola difficile, di sensitizzazione, cioè di refrattarietà alle cure, e non funziona. Attenzione però, se uno ha spesso mal di testa, può invece essere che il mal di testa al mattino abortisca spontaneamente, cominciando a carburare, a muoversi. E quindi in questi soggetti diremmo invece di aspettare a vedere se più che le rose le spine pungono. Professor Barbanti, a volte stiamo parlando con il dottor Nobili di sonno, è proprio il mal di testa a svegliarci nel cuore della notte. In questo caso, che tipo di mal di testa è e che cosa possiamo fare? È un tema che mi piace molto ed è estremamente interessante, cioè una vera e propria cronologia. Se il soggetto è svegliato dal mal di testa tra le 4 di notte e le 6 del mattino, così, è il più delle volte una semplice emicrania. se un soggetto che è sempre stato un emicranico ti dice: guardi, che io non mi sveglio più alle 4 alle 5, ma nel cuore della notte, le 2 di notte, le 3 di notte, misuri la pressione, perché probabilmente quel soggetto emicranico non ha più l'abbassamento fisiologico della pressione, in particolare minima, nel corso della notte, e gli si scatena l'attacco. Terza tipologia, quello col mal di testa nella prime ore della notte, all'una di notte, 1:30, quelli sono di solito i soggetti con cefalea a grappolo. Quindi dite al medico a che ora inevitabilmente vi svegliate e darete a lui la possibilità di farvi una diagnosi precisa. Professor Barbanti, noi la ringraziamo per essere stato con noi. Torneremo su questo tema molto presto. Ci stanno arrivando numerosi messaggi e richieste d'aiuto dei nostri ascoltatori. Intanto, buon weekend, professor Barbanti. Grazie, arrivederci, a risentirci. Dottor Nobili, noi continuiamo a cercare di dormire bene. Ci sono tantissimi messaggi che stanno arrivando. Quando è il caso di prendere la situazione di petto, come ci scrive Fabio, e affidarsi a farmaci? Tema molto delicato. Ai farmaci sempre bisogna affidarsi dopo che si è parlato col medico, che ha deciso... se è necessario farli. Quindi, però, se un soggetto soffre di insonnia e questa insonnia persiste dopo per 2 settimane, è necessario assolutamente, anche prima, anche una decina di giorni, conviene cercare di capire come fare a interrompere il più presto possibile. Un'insonnia transitoria, per qualsiasi situazione che ci può essere stressante, è comune a tutti, quindi un'insonnia transitoria per alcuni giorni può succedere a tutti, ma quando questa persiste è necessario interromperla. Ecco, persiste, quanto tempo ci diamo, dottor Nobili? Io, guardi, generalmente consiglio che se un'insonnia dura più da 10 giorni e comincia a crearsi la paura, bisogna assolutamente fare qualche cosa. Ecco, lei ha detto una parola, crearsi la paura, ed è quello che mi stanno raccontando alcuni ascoltatori. Io ho paura di non addormentarmi, perché dopo un periodo di insonnia, di fatica a dormire, adesso mi addormento e ho l'occhio sbarrato. C'è la paura di non dormire, che non ci fa dormire e sembra un gatto che si morde la coda. Sì, beh, ma è proprio così, è un circolo vizioso che si instaura, il soggetto insonne dopo, quando si avvicina alle ore serali, comincia già a pensare: oddio, alla sera non riuscirò a dormire, mette in atto generalmente dei comportamenti inadeguati, è entrato in un circolo vizioso che se non ha una mano, un aiuto esterno, non ne può uscire. Quindi in questo caso ecco perché funzionano bene degli approcci, si chiamano di terapia cognitivo-comportamentale, si danno proprio delle indicazioni al di là dei farmaci, e in questo caso è estremamente efficace questa modalità di trattamento. Dottor Nobili, un minuto per commentare una notizia che sta circolando, i risultati sul web, i risultati di una ricerca che dice: depressione, dormire meno riduce i sintomi nel 50% dei pazienti. Dormire per 3-4 ore e per le restanti 21-20 restare svegli migliora i sintomi della depressione molto rapidamente, anche nel giro di un giorno. Abbiamo proprio un minuto per così commentare e dare veramente un significato a questo studio per... È uno studio assolutamente che dà un dato che conosciamo, gli specialisti lo sanno, che la deprivazione acuta di sonno porta a uno stato quasi di attivazione di euforia, che nel caso della depressione è estremamente efficace, perché c'è come una liberalizzazione dall'effetto inibitorio del lobo frontale, si è un po' disinibiti. Nel caso della depressione questo porta a un aumento del tono dell'umore. Il problema è che funziona in acuto, nel senso che questo effetto dura un giorno, 2 giorni, dura pochissimo. Se noi manteniamo una deprivazione costante si ottiene l'effetto contrario, quindi è un meccanismo per riuscire a entrare in contatto col paziente, migliorare il tono dell'umore e poi instaurare tutti gli altri approcci terapeutici, non può essere usato come unica terapia. Grazie per la chiarezza, grazie per essere stato a Obiettivo Salute Weekend. Dedicheremo, e io l'aspetto qui, una diretta Facebook su tutti i disturbi di sonno dei bambini. Me lo state chiedendo, ma io acchiapperò il dottor Nobili per voi, ce la farò. Intanto buon weekend da Nicoletta, torno domani con la bufala in tavola, vi aspetto a mezzogiorno, state bene. Dottor Nobili, grazie. Grazie a lei, saluti a tutti. Abbiamo Valeria in regia, Claudia in redazione, Rosa al centralino, tutte donne, forza, avanti, a domani.